Componimento trentunesimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quest'anima gentil che si diparte, anzi tempo chiamata all'altra vita, se lassuso è quanto esser dee gradita, terrà del ciel la più beata parte. Se la riman fra l terzo lume e Marte, fia la vista del sole scolorita. Poi ch'a mirar sua bellezza infinita, l'anime degne intorno a lei fien sparte. Se si posasse sotto al quarto nido, ciascuna delle tre saria men bella, ed essa sola avria la fama e il grido. Nel quinto giro non abitrebbe ella, ma se vola più alto assai mi fido che con Giove sia vinta ogni altra stella. Fine del componimento.